Non ci è dubbio che tra le qualità richieste nella vita di una persona spicchi la coerenza in qualsiasi settore della vita, e particolarmente sia nell'ambito religioso sia politico. Un uomo politico che non sia coerente non trova seguaci. Un uomo religioso incoerente viene disprezzato. Perfino in seno alla criminalità, dove regna ogni sorta di ingiustizia e di illegalità, è imposta la coerenza a ciò che si dice. Diversamente si è esclusi. Se, come ha detto Gesù, una casa divisa in parti contrarie non può durare, è evidente che anche una organizzazione malvagia non può sussistere se all'interno dei suoi membri non vi è coerenza. Proprio perché la coerenza è uno dei collanti dell'umanità, proprio perché è una delle virtù più richieste, ognuno di noi cerca di essere coerente con quello che dice e con quello che fa. Questo ci porta ad essere coerenti anche in un altro campo, quello dei sentimenti, purtroppo minato dall'instabilità delle nostre personalità. Ognuno di noi cerca di essere coerente o in armonia con l'universo della sfera affettiva o delle emozioni. E così ecco che al giorno d'oggi degli sposi, per coerenza ai sentimenti reciprocamente o individualmente provati, divorziano perché non si amano più, mentre un giovane, sempre per coerenza al suo stato d'animo, non va più a scuola perché non ha più voglia di studiare. Sembra che la società sia disarmata di fronte a questi atti di coerenza, sembra proprio spiazzata, che abbia la bocca chiusa. Cosa dire agli sposi se non si amano più? Dire loro di sforzarsi di fare ciò che non sentono nel loro cuore? In definitiva, chiediamo agli sposi di non essere coerenti con i loro sentimenti? Chi chiederebbe questo? E cosa dire al giovane che, fino a ieri, seguiva gli studi brillantemente e poi all'improvviso ha una totale avversione alla scuola? Dobbiamo obbligarlo ad andare contro al suo primo impulso di non voler studiare? Ma come può studiare se non ne ha voglia? Molto probabilmente questo è il conflitto di fondo della nostra personalità e della società nella quale viviamo. Il giovane ha voglia di trasgressivo e rompe dei lampioni, ha voglia di evadere e prende la droga, ha voglia di divertirsi e guida all'impazzata. Gli adulti hanno voglia di cambiare e tradiscono il loro partner, hanno voglia di soldi e non pagano le tasse, hanno voglia di una casa e imbrogliano negli affari. Come risolvere questa coerenza, che possiamo definire dannata coerenza? Possiamo insegnare al prossimo a non essere coerente con i propri sentimenti? Sì, non solo possiamo insegnare al prossimo a non essere coerente con le proprie emozioni, ma dobbiamo obbligarlo a farlo, per il nostro bene e per il bene della società. Per quanto possa sembrare strano, sia agli increduli sia alla maggioranza dei credenti che hanno posto fede in Cristo, la persona più incoerente con le proprie inclinazioni emotive è proprio colui che vive da cristiano. Già questo spiega il motivo per cui il cristianesimo alla fine è la risposta definitiva ai problemi sociali e personali. Ho specificato che è il vero cristiano a essere in grado di risolvere i propri problemi e quelli della società, e non l'incredulo, il religioso o il cristiano nominale. Non è l'incredulo, perché anche se lo volesse con tutta la sua anima, ne resta impossibilitato. Neppure può essere il religioso, perché gli manca la potenza. Né può il cristiano nominale, perché è dotato di una capacità che però non usa. Potrebbe sembrare una conclusione molto opinabile, ma la Bibbia, la parola di Dio, autorizza a predicare questo tipo di Vangelo, questa buona notizia. L'Apostolo Paolo, in tutte le lettere destinate ai credenti in Cristo, ha sottolineato e insistito sulla necessità di comportarsi bene e, facendo questo, non ha solo dato dei buoni consigli, ma ha gettato un principio che sta alla base del comportamento cristiano e decisamente in opposizione al nostro desiderio di essere coerenti con le nostre voglie. Vivere da SDOPPI Antico Testamento I. Lo dice in modo particolare nella lettera ai Galati. Tutta la legge infatti si adempi in questa unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ora io dico, camminate secondo lo spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fantico testamento e quel che vorreste. Ma se siete condotti dallo spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, diottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Galati 5.1-4.25. Nell'ordinare ai credenti di amare il prossimo come se stessi, Paolo è costretto a determinare un principio, quello di essere condotti dallo Spirito di Dio. Solo a questo punto Paolo scende nei particolari, perché molti possono dire di essere condotti dallo Spirito Santo e, tuttavia, vivono dominati dalla carne, cioè da quei comportamenti contrari al volere di Dio. Chi è condotto dallo Spirito di Cristo per frutto o risultato si comporterà secondo la volontà di Dio, mentre chi è schiavo di desideri sbagliati compie ogni sorta di comportamenti illeciti. Su questo non ci piove. Non vi sono dubbi di alcuna sorta. Quello che sfugge però alla maggioranza delle persone è che tutto questo avviene non in modo lineare, senza opposizione, ma mediante un conflitto interiore non indifferente. Va specificato però che non tutti si trovano nel mezzo di questa intima lotta, ma solo quelli che hanno ricevuto lo Spirito Santo. Infatti, l'incredulo possiede solo una natura umana corrotta alla quale non può fare a meno di ubbidire, a meno che la propria coscienza gli impedisca di lasciar sfogare liberamente le voglie dei suoi istinti corrotti, mentre chi ha posto coscientemente una fede salvifica in Cristo riceve lo Spirito Santo e, contemporaneamente, riceve pure impulsi di santità. Il credente si trova così ad avvertire dentro di sé due forti impulsi, uguali e con Nuovo Testamento rari. Uno, a compiere il male, l'altro a compiere il bene. Stando così la situazione, per forza di cose il credente, rinato, di nuovo, non può più fare quello che sente istintivamente dentro di sé, ma, con un atto di volontà, deve vivere sdoppiato dai propri sentimenti, e quindi dal proprio io, è diviso in due, fra la propria vecchia personalità, condotta solo dai sentimenti, e quella nuova ad ogni istante si trova a dover scegliere a quale istinto ubbidire. In pratica, se uno mi fa torto, la mia prima reazione sarà quella di ripagare il prossimo con la moneta che ho ricevuto. Se mi assale la pigrizia, sarò tentato di fermarmi. Se il mio coniuge viene meno ai suoi compiti, sarò tentato di divorziare. Ma, e questo è il punto, dopo aver riflettuto e compreso che ciò è sbagliato, non soddisferò le mie voglie, non ubbidirò ai miei impulsi. Ma, con ferma determinazione, sceglierò di seguire altri impulsi, quelli dello Spirito di Dio, e compirò in tal modo ciò che è giusto, contro i miei sentimenti, e ben inteso, tanto incoerentemente con quello che provo, al punto da sentirmi ipocrita, non sincero, doppio. Ma è la mia consapevolezza di compiere il Nuovo Testamento di Dio, è più forte della mia coscienza, imperfetta, perché formata nella mia vecchia natura, elle a quale rimprovera questo SDOPPIAME Nuovo Testamento. Un conflitto che a volte turba chi ha una forte sensibilità verso la coerenza, ma che prima o poi arriva alla conclusione che non sesto è coerenza più profonda se non nel vivere incoere Nuovo Testamento e Nuovo Testamento e con le proprie inclinazioni. Desidero vendicarmi, farò invece del bene. Ho voglia di mentire, dirò allora la verità. È difficile definire la vita cristiana in poche parole, ma Paolo Chen è riuscito quando disse «Quan, non abbiate cura della carne per soddisfarne le sue concupiscenze». Romani 13.1-4. Se la concupiscenza è ogni desiderio illecito, è evidente che la prima chiamata del cristiano è quella di vivere incoerentemente con le proprie voglie prodotte dalla natura insanabilmente maligna. Cosa del resto ripetuta da Paolo in altre lettere: fate dunque morire le vostre membra che sono sulla terra. Fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e avidità, che è idolatria. Colossesi 3, 5. Un ordine del genere risulta proprio come un pugno in un occhio al giorno d'oggi, dove la prima regola è: va dove il tuo cuore ti manda, il che vuol dire di essere coerente con i propri sentimenti naturali. Non a caso l'apostolo Pietro, che prima della conversione ha vissuto spesso secondo i propri impulsi, ha scritto: prima di tutto dovete sapere questo, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori, che cammineranno secondo le loro proprie voglie. 2 Pietro 3, 3. Bisogna rifletterci sopra. Che gli uomini abbiano vissuto secondo le proprie voglie non è una novità, perché è il loro andamento ordinario, per cui se Pietro dice che negli ultimi tempi verranno degli schernitori, i quali cammineranno secondo le proprie voglie, è evidente che dovrà esserci un periodo particolare nel quale si farà solo ciò che ci si sente, si farà tutto per coerenza ai propri sentimenti o inclinazioni. Non stiamo forse andando in quella direzione? Non stiamo forse attenti alla nostra coerenza individuale, a non vivere da sdoppiati, ad appagare le nostre inclinazioni, senza tuttavia tener conto se ciò sia giusto o sbagliato? Purtroppo ciò che importa oggi non è più tanto la conoscenza unita all'esperienza acquisita tramite una pratica, ma l'esperienza vissuta e l'autenticità del sentimento, che diventano criteri a partire dai quali si giudicano le cose. Quando Paolo afferma che ci sono persone che professano di conoscere Dio ma lo rinnegano con i fatti, Tito 1.16, a chi va il nostro pensiero? Siamo coscienti che si stia alludendo a persone ipocrite oppure a persone pienamente convinte di fare bene perché si muovono coerentemente con i loro impulsi ma che si astengono dal giudicare la giustezza delle loro azioni? Poiché l'amore di Dio mi costringe a non sospettare il male, sono arrivato alla conclusione che le persone malvagie e ribelli non sono necessariamente le più spregevoli della società, ma molto spesso sono quelle moralmente buone e coerenti con se stesse. Una coerenza che Dio condanna fortemente perché Cristo chiede una rinuncia a se stessi e ordina di prendere la propria croce e di seguirlo. Matteo 10.38. In che cosa consiste la propria croce e la rinuncia a se stessi, se non nel disubbidire alle proprie voglie sbagliate, per ubbidire alla voce dello Spirito Santo? Uno sdoppiamento salutare, benedetto, perché, come ha detto Gesù, chi avrà perduto la propria vita per amore mio la ritroverà. Matteo 16.25. Giugno 2010. Ellero.